Luna tu, che risplendi da lassù, sopra un mare dipinto di blu. Se ti guardo e sospiro è perché la mia bella non è ora qui con me. Il tuo lieve e luminoso candore ha ispirato le parole d'amore che se a lei non le posso cantare. Luna tu vorrai certo ascoltare. Senza motivo, dimmi perché. Prende per mano, dal mio sole mi porta lontano, ma stanotte mi manca il suo calore. Luna tu, riscaldami il cuore. Senza motivo, dimmi perché. Via, penso al luogo della mia fantasia. Luna tu, quando poi sorgerai?